Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Certo che proprio non ci mancano i temi per parlare di mercati finanziari. In queste settimane le borse sono state sotto pressione non poco in attesa di una schiarita della crisi greca che non sta ancora arrivando, almeno non nei termini in cui il mercato vorrebbe. Il paese è tecnicamente in default perché non ha le risorse per ripagare il suo debito, la gestione corrente delle spese garantita dai prestiti di Fondo Monetario e Unione Europea, ma la nuova tranche di questi prestiti, quella da 12 miliardi che sarebbe dovuta arrivare in questi giorni, è stata rinviata a luglio ed è stata condizionata all'approvazione da parte del Parlamento greco delle nuove misure di austerità e il programma di privatizzazioni. Oggi peraltro si vota la fiducia al nuovo esecutivo dopo il rimpasto della settimana scorsa. E in tutto questo è stato fissato anche al 3 luglio un nuovo vertice straordinario dei ministri finanziari per esaminare i progressi, semmai ne farà, realizzati appunto da Atene. Come se poi non ci bastasse la fibrillazione, in tutto questo i riflettori si sono puntati da qualche giorno con vigore sull'Italia. A farlo è stata in particolare l'agenzia di rating Moody's, che venerdì ha detto di aver messo sotto osservazione il rating del paese, il giudizio sul debito del paese, per una possibile riduzione, in gergo si dice downgrade. Poi ieri sera ha completato il suo intervento ponendo sotto osservazione il rating a lungo termine di 23 enti locali d'Italia, che comprendono regioni, città, province ed enti parastatali, e le loro obbligazioni di debito non garantito. E poi la stessa cosa, sempre Moody's, ha fatto sulle rating di alcune grandi aziende italiane, peraltro gran parte delle quali quotate, Eni, Enel, Finmeccanica, Terna e in queste anche Poste Italiane. Allora, al di là del commento della situazione sulla situazione e al di là delle previsioni che si possono fare oggi, effettivamente, come dire, situazione molto difficile e previsioni molto difficili da fare, quello che ci interessa capire oggi è che indicazioni utili possono essere date ai risparmiatori in questo frangente per navigare in acque che sono a dir poco agitate. Allora, noi stamattina ci intratterremo su questo tema con una chiacchierata a tutto campo con un ospite che abbiamo un gran piacere di avere qui con noi questa mattina, Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato di Azimut, che saluto. Dottor Giuliani, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti. Allora, Azimut è il principale gruppo italiano operante nel settore del risparmio gestito indipendente, e per la verità lo abbiamo chiamato anche per un'altra ragione, cioè per il fatto che questa società si sta avventurando in territorio cinese in maniera molto concreta. Dopo aver aperto la sua sede ad Hong Kong e a Shanghai la scorsa settimana, ha lanciato Renminbi Opportunities, il primo fondo europeo che consente di puntare sulla valuta cinese. Un investimento che al momento è rivolto in primo luogo ad imprenditori europei con rapporti commerciali ed industriali con la Cina, ma l'obiettivo è di aprire questa opportunità di investimento anche ai piccoli risparmiatori e agli investitori retail. Dottor Giuliani, mi pare che in questo periodo non abbia proprio tempo di annoiarsi tra mercato agitato e soprattutto tra le prospettive di investimento e di crescita del suo gruppo. Direi assolutamente di no, come tutti quelli che fanno il mio mestiere. In momenti di grandi cambiamenti economici a livello mondiale, ovviamente la reazione veloce e possibilmente quella giusta è la cosa più difficile, è quella che genera più angoscia, ma una volta che poi uno ha scelto una strada e comincia a vedere i primi risultati, poi mi immagino che saranno e saremo tutti quanti contenti. Questa, diciamo, che è una ricetta che può valere sicuramente per voi per quello che riguarda la vostra avventura in Cina, ma diciamo che potrebbe essere una ricetta applicabile anche ai piccoli risparmiatori che naturalmente, come dire, si muovono in questo momento sull'onda di considerazioni del tutto emotive, però potrebbero anche esserci delle possibilità di essere più tranquilli. Ho letto anche delle sue interviste in questi giorni in cui invita alla tranquillità a prescindere dal giudizio di Moody's, che ancora per la verità non è stato completamente espresso, c'è solamente, come dire, un warning, come si dice in gergo finanziario, ma vedremo se poi si concretizzerà anche in una riduzione di giudizio e che effetti ci saranno. Forse il mercato ha già digerito qualunque possibile effetto. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che consente ai nostri ascoltatori di intervenire in diretta con delle domande a noi, che gireremo naturalmente a Pietro Giuliani. 349 238 6666 il numero per i messaggi. In alternativa ci potete scrivere anche all'indirizzo della nostra trasmissione, salvadanaio@radio24.it. Riepiloghiamo un po' intanto la nostra scheda, cosa è successo negli ultimi giorni sui mercati. L'arrivo dell'estate non sembra riscaldare i mercati finanziari del vecchio continente. Al contrario, da diversi giorni soffia in Europa un vento di incertezza diffusa, che, manco a dirlo, proviene in particolar modo dalla Grecia. Non possono infatti non pesare sulle borse le tante incognite di un paese che ha visto congelarsi 12 miliardi di euro di prestito attesi per evitare il sempre più temuto fallimento. L'Eurogruppo ha deciso di posticipare l'erogazione di questa tranche di aiuti, che fa parte del piano complessivo di salvataggio da 110 miliardi, in attesa che il Parlamento greco vari un nuovo piano di austerity e dia un'accelerata alle privatizzazioni, portando così a termine il negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario sullo stato di avanzamento del piano di risanamento dei conti pubblici. Sotto i riflettori però c'è anche l'Italia, dopo che Moody's ne ha posto sotto revisione il rating, avviando una ricognizione a tutto campo. Nel mirino soprattutto le debolezze strutturali del nostro paese, la bassa crescita e l'alto debito pubblico, ma anche i rischi sul rispetto dei programmi di consolidamento fiscale e la fiducia nel governo. Gli effetti di questa notizia e della crisi greca non hanno tardato a farsi sentire, in primis con l'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato italiani e dello spread sul Bund tedesco. Non poteva inoltre non risentirne il settore bancario, traino dell'intero mercato nostrano, che ha visto accentuarsi i cali, dovuti anche a una lunga serie di aumenti di capitale già chiusi o in programma. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Rimaniamo, ingegner Giuliani, subito sulla cronaca. Qual è la sua percezione della crisi greca, il punto a cui è arrivata? Siamo fuori dal rischio bancarotta, e se questa si dovesse concretizzare, che effetti vedremo? Siete preoccupati come operatori di mercato? Ma diciamo che come operatore di mercato, visto la dimensione che ha la Grecia, non siamo particolarmente preoccupati per la Grecia, nel senso che la Grecia è un paese con all'incirca una decina di milioni di abitanti, che ha un PIL equivalente a quello della Lombardia. Di questi 10 milioni, 6 milioni più o meno sono localizzati intorno ad Atene, quindi la dimensione della Grecia è molto piccola, così come anche quando si parlava d'Irlanda la dimensione dell'Irlanda era piccola, così come ogni tanto si parla anche di Portogallo. Quindi io sposterei il problema non tanto dalla Grecia quanto un pochettino a tutto il mondo occidentale. Ad un possibile domino, diciamo, di una bancarotta. Sì, ma la farei anche più semplice. Diciamo che più che di bancarotta io parlerei di crisi del mondo occidentale. Ci sono dei paesi in Occidente, quindi in Europa, negli Stati Uniti, se volete includiamo anche il Giappone, che consumano molto più di quello che producono. Di conseguenza questo modello va rivisto. Che poi ce n'è qualcuno strutturalmente più debole, come la Grecia, che produce molto meno degli altri e quindi ha più o meno parità di consumi, sia più facilmente in deficit, diventa un dettaglio. Allora, che poi dopo questo paese, la Grecia, sia stato finanziato da banche appartenenti ad altri paesi della Comunità Europea, le quali se la Grecia saltasse avrebbero dei problemi e quindi per essere poi sostenute ricadrebbe comunque su cittadini della Comunità Europea, questo è quello che fa parlare di effetto domino. In realtà, ripeto, c'è un paese che consuma molto più di quello che produce, ci sono delle azioni di carattere politico e quindi sociale ed economico che vanno intraprese in tutta l'Europa. Oggi stiamo parlando della Grecia, ma è un discorso che si può estendere a tutti i paesi, nessuno escluso. Un paese che ha vissuto nettamente al di sopra delle sue possibilità, che ha truccato anche i suoi conti e che forse proprio per questo suo comportamento sarebbe anche giusto che pagasse per quello che ha fatto, ma poi appunto proprio per scongiurare tutto un eventuale domino, chiaramente invece è meglio che questa situazione venga tenuta sotto controllo. A quanto pare in questa direzione sono orientati i governi dell'Eurozona, però vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, se questo governo, se questo paese sarà in grado di garantire questo programma di austerità che l'Europa chiede, e allora è chiaro che le istituzioni europee continueranno ad aiutarlo. In alternativa forse vedremo qualcosa di più preoccupante. Detto questo, in tutta questa crisi, Giuliani, che posizioni voi avete? Fondi di qualunque tipo in casa vostra che investono chiaramente sull'equity, sul mercato azionario, sul mercato obbligazionario, quel mercato obbligazionario che peraltro è stato molto più volatile di quanto non eravamo abituati a vedere in passato, no? Perché soprattutto gli italiani sono abituati a considerare l'investimento nell'obbligazione governativa come una vera e propria, come un investimento in una cassaforte che nessuno può scalfire. In questo mercato come avete navigato in questi mesi? Per noi è stato abbastanza semplice, nel senso che noi dividiamo molto accuratamente il rischio che si prende sulle azioni da un veramente molto basso livello di rischio che tendiamo a prendere sulle obbligazioni, e questo è successo fino a un certo punto. Da quando si è cominciato addirittura a mettere in discussione il debito degli Stati Uniti, a quel punto lì effettivamente abbiamo avviato una profonda riflessione, la profonda riflessione a cui che stiamo ancora facendo, ma se vogliamo la soluzione a cui siamo arrivati è effettivamente oggi ci sono molte aziende che hanno un debito paragonabile come solidità e quindi come sicurezza per il risparmiatore a quello di molti stati anche evoluti, per cui oggi come oggi noi sicuramente ci siamo tenuti fuori dal debito greco come dal debito di tanti altri paesi periferici, e guardiamo magari con maggior simpatia il debito di società solide che peraltro danno anche rendimenti leggermente maggiori, quindi questa è un po' la tendenza in atto che ovviamente non è solo nostra ma che stiamo seguendo anche noi. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Oggi vi proponiamo una chiacchierata a 360 gradi, partendo inevitabilmente dalla situazione attuale, quindi dalla crisi greca, l'impatto sul mercato, con l'ingegner Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato di Azimut, uno dei più grandi gruppi italiani indipendenti operanti nel settore del risparmio gestito. Ci sono molte domande per lui e molti che chiedono soprattutto a Giuliani di dare una lettura alla sua sfera di cristallo per capire che cosa si può ragionevolmente prevedere, anche per poter naturalmente allocare in maniera corretta i risparmi di ognuno. Allora, intanto vi leggo una notizia che la mia assistente Gaia Romani mi sta segnalando. La Grecia ha collocato sul mercato 1 miliardo e 625 milioni di euro di titoli con scadenza trimestrale. Il tasso è balzato al 4,62% contro il 4,06% dell'ultima asta. C'è stata però una buona domanda da parte degli investitori, pari a 2,94 volte l'importo offerto. C'è anche da dire che però molti titoli del tesoro greco se li stanno comprando le banche greche, almeno fino a quando hanno le risorse appunto disponibili da parte della Banca Centrale Europea, delle istituzioni appunto europee, e comunque almeno quest'asta è andata bene. Giuliani, allora ritorniamo a lei, ci racconta un po' questa avventura cinese? Anzi no, prima le volevo fare una domanda, tanto per fare anche a chi non la conoscesse il biglietto da visita della sua azienda. Attualmente quanti fondi di investimento distribuiti? E quali sono in questo momento le scelte più gettonate da parte dei vostri clienti? Su quali mercati li state orientando? Allora, noi abbiamo soluzioni di prodotto di oltre 60 prodotti, poi contandone tanti potremmo arrivare fino a quasi a 100, ma diciamo i principali sono 60. Noi ci orienteremo molto volentieri su alcuni prodotti che in questo momento sarebbero i più efficaci ed efficienti per i nostri clienti. Purtroppo invece i clienti, come tutti quanti in questo momento, terrorizzati dalla crisi greca, terrorizzati dall'instabilità dei mercati azionari e da tutto quello che sentiamo tutti i giorni alla televisione, leggiamo sui giornali o alla radio, tendono a fare le scelte molto conservative, per cui uno dei prodotti migliori che riusciamo a collocare in questo momento è un prodotto, diciamo, market neutral, quindi un prodotto che ha un rendimento simile a quello di un prodotto monetario, quindi rende più o meno come un bot, e il gestore può, facendo degli arbitraggi sulle azioni, dare un più di rendimento. È un prodotto che renderebbe bene con tassi più alti, con tassi così bassi è un po' mortificato, però è uno dei prodotti che va di più. Anche perché dobbiamo ricordare che dovete gestire come industria, come società operante nel settore dei fondi di investimento, appunto la concorrenza molto forte che continua ad essere mantenuta e anzi si va intensificando, perché molti conti di liquidità stanno aumentando le proprie remunerazioni seguendo le azioni della Banca Centrale Europea, quindi in questi ultimi periodi avete dovuto affrontare proprio anche, come dire, le remunerazioni molto alte offerte dalla liquidità purissima, Giuliani. È proprio così, diciamo che come al solito noi tendiamo a guardare un po' più lontano di dove guarda la persona normale, soprattutto se lasciata da sola e quindi non assistita da un professionista. Noi abbiamo sempre cercato di dare, e ci siamo riusciti per moltissimo tempo, poi vedremo ancora per il futuro, a dare un rendimento superiore a quello che normalmente danno investimenti di tipo molto conservativo, quindi monetari, conti deposito, bot o cose simili, proprio perché diamo e mettiamo sempre una componente azionaria che è quella che permette di dare un rendimento al cliente maggiore. Un extra rendimento, sì. È chiaro che in questo momento di grande paura e di grande confusione da parte di tutti, la tendenza ad appiattirsi su queste soluzioni, che nel brevissimo sembrano migliori e più accattivanti, è un qualche cosa che nel breve può far stare un po' più tranquilli, però nel medio-lungo farà guadagnare di meno. Quindi noi cerchiamo di fare il nostro mestiere facendo guadagnare il più possibile le persone senza fargli perdere il sonno durante la notte. Anche perché qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi molto interessante, che sarebbe quella dell'analisi del concetto di lungo periodo cancellato da questa crisi dirompente che ci ha travolto negli ultimi anni, perché lo ricordo ancora, lo faccio molto spesso, nel marzo del 2008 la borsa è arrivata al minimo dal 97, aveva cancellato 12 anni di storia, per cui, come dire, tornare a convincere i piccoli risparmiatori che sul lungo periodo anche il mercato azionario premia sempre, credo che adesso sia un esercizio comunque intellettuale, finanziario, molto complicato da fare anche da parte di voi professionisti. Le faccio sentire la prima domanda per lei, Giuliani, da parte di Antonio dalla provincia di Monza e Brianza. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica tutto. Senta, io volevo chiedere, siccome ultimamente si è parlato anche di una possibile fase di recessione ancora dei mercati e quindi il rischio di ricadere ancora in un doppio minimo simile a quello del 2009. Volevo veramente sapere se è solo un discorso teorico così o ci sono veramente i presupposti per cui si possa verificare una situazione del genere. Sì. Poi un'altra domanda velocissima, a che livello potrebbero arrivare i mercati finanziari se le borse dovessero scendere, in particolare lo Standard & Poor's 500 americano? E un'ultima cosa su che cosa ne pensa del cambio euro-dollaro. Grazie Antonio, mamma mia, qua ci ha completato la trasmissione il nostro ascoltatore, ma siccome Giuliani comunque ha la dote della sintesi che è molto, molto interessante, so che riusciremo appunto a rispondere al nostro ascoltatore in maniera piuttosto veloce, però il tema della double dip, Giuliani, mi sembra che non sia più esattamente all'ordine del giorno come era qualche mese fa, cioè della ricaduta in una fase recessiva, oppure Antonio ha ragione, cosa dicono gli economisti di casa Azimut? Allora, diciamo questo, gli ultimi tempi ci hanno abituato a vedere tutto il contrario di tutto, per cui in senso assoluto io non mi sentirei di escludere anche la probabilità del double dip. Mettiamola così, se si verificasse sarebbe una cosa più dovuta a effetti psicologici emotivi dei mercati finanziari piuttosto che a dei fondamentali dell'economia, per cui io non sto puntando su uno scenario di questo tipo. Detto ciò, comunque, e così magari riesco a rispondere sintetizzando e non eludendo, ma sintetizzando le altre due domande, quindi il livello dei mercati finanziari, dello Standard & Poor's 500 e il cambio euro-dollaro, io mi immagino una cosa di questo tipo. Oggi, indipendentemente da tutto quello che può accadere, l'economia nella parte occidentale del mondo è sicuramente in sofferenza, mentre nella parte orientale è in grossa progressione. Bene, se uno investe in azioni e normalmente lo fa tramite risparmio gestito o più sconsigliato direttamente, investe in azioni quotate. Le aziende quotate dopo la crisi del 2007, 2008, 2009 hanno ormai organizzato le loro strategie e i loro comportamenti a un periodo di crisi, quindi è difficile che queste aziende, se ben gestite, ben selezionate, ripeto, possibilmente da un bravo gestore, diano dispiaceri al risparmiatore, e quindi indipendentemente dai livelli dello Standard & Poor's o dal cambio euro-dollaro, io credo che in un momento come questo le aziende e quindi l'investimento in azioni quotate, che si sono ormai già attrezzate a sopravvivere alla nuova normalità riveniente dalla crisi del 2008-2009, sono pronte anche ad un eventuale double dip, che però, ripeto, per me è molto improbabile. Diciamo che non viaggiano al di sopra delle proprie possibilità, come fanno invece alcuni paesi ancora dell'Eurozona, che in realtà, per la verità, questa abitudine se la sono tolta, ma ne stanno pagando le conseguenze di atteggiamenti sbagliati del passato. Peraltro, soffermandoci per un attimo sul tema dell'andamento delle borse possibile da qui alla fine dell'anno, leggevo nella sua intervista che ha rilasciato al giornale ieri, se non mi sbaglio, Giuliani, che lei comunque è positivo sull'equity da qui a dicembre. Io lo sono perché, ripeto, questo non vuol dire essere positivi per forza sull'economia o sul paese, lo sono perché normalmente l'investimento in equity, soprattutto appunto aziende quotate tramite gestori che le selezionano bene, investe in aziende come la mia, così parlo di casa nostra, dove noi dal 2008 abbiamo smesso di crescere numericamente come assunzioni in Italia, mentre abbiamo in programma nei prossimi 3 anni di crescere pesantemente come assunzioni in Cina, e questo semplicemente perché andremo ad assumere nella parte di mondo che sta crescendo e si sta sviluppando, dove aggiungiamo valore per i nostri clienti e per i clienti e la ricchezza che si stanno formando lì, sospendendo una crescita più pericolosa e problematica in una zona come l'Europa, dove sicuramente i tassi di crescita e le opportunità sono minori. Non si potrebbe assumere in Italia, ingegner Giuliani, e magari portare qualche bella professionalità in Cina? Questo noi lo stiamo facendo, di fatto abbiamo assunto sia in Italia che in Lussemburgo che in Irlanda principalmente degli italiani, abbiamo trasferito degli italiani in Cina nelle nostre sedi sia di Hong Kong che di Shanghai, che lavoreranno a strettissimo contatto con la maggioranza dei loro colleghi che saranno cinesi e cinesi di seconda generazione. Noi abbiamo alcuni colleghi che sono cinesi di famiglia, parlano il cinese in casa, però hanno studiato in Italia, si sono laureati in Italia, adesso vanno lì perché il mondo sta crescendo lì, è un pochino della storia, è un pochino, si sta ripetendo quello che è successo nella storia tra gli Stati Uniti e l'Italia del dopoguerra. Ecco, oggi l'Italia si può comportare come gli Stati Uniti verso l'Italia del dopoguerra, che in questo caso è la Cina, che non ha avuto una guerra, che però sta a quel livello di sviluppo e quindi dà opportunità per chi ha buona volontà e vive in Italia, in generale in Europa, per andare a lavorare in un pezzo di mondo che si sta sviluppando. Allora, adesso devo andare ai suggerimenti perché in viaggio non riesco ancora a farle raccontare di Renminbi Opportunities, del vostro fondo appunto lanciato proprio la settimana scorsa, però volevo magari una battuta da parte sua sul tema cinese. Questa Cina, per fortuna che c'è stata fino a questo momento, perché ha veramente scongiurato anche il tracollo del debito sovrano europeo, visto che ne ha continuato a comprare tanto, oltre ad essere il principale detentore di titoli di Stato americani, adesso sta facendo incetta anche di bond governativi dell'Eurozona. La Cina detiene il 13% del debito italiano, dobbiamo preoccuparci per questa cosa? È una buona cosa, Giuliani? È assolutamente normale, dipenderà da noi se la cosa potrà essere preoccupante oppure un'opportunità. Allora, Giuliani, abbiamo davvero tante domande per lei, molti ascoltatori che ci chiedono un suo giudizio sul mercato immobiliare, sulle materie prime, sull'oro, sui BTP italiani e il giudizio di Moody's, ma prima però andiamo a raccontare che cos'è Renminbi Opportunities, perché questo è un fondo di investimento che permette di puntare sulla valuta cinese e quindi di cogliere le opportunità che questo mercato sta dando, però avete pensato di partire offrendo questo fondo soprattutto, no, solo esclusivamente in questo momento agli imprenditori. Perché? Diciamo che perché loro sono i primi ad averne i vantaggi, nel senso che avendo aziende che lavorano con la Cina, il potersi coprire dal rischio di oscillazione della valuta rispetto alla valuta cinese era un qualche cosa che costava solo. Gestendo noi il fondo, oltre ad essere coperti dalla valuta, hanno anche un rendimento finanziario dalla nostra gestione che facciamo, essendo basati a Hong Kong, oltre poi a degli altri vantaggi che non è questa la sede di spiegare per gli imprenditori. mentre per il piccolo risparmiatore un prodotto di questo tipo, che lanceremo sicuramente nei prossimi mesi, ha il senso di, oltre ad investire in una in un paese, ripeto, che ha dei tassi di sviluppo maggiori, la valuta cinese, che fino a qualche mese fa non era possibile comprare, vedrà arrivare masse importanti di denaro nei prossimi anni, che inevitabilmente la faranno apprezzare rispetto alle altre valute principali, dollaro ed euro. E quindi, oltre a godere del rendimento finanziario di obbligazioni e liquidità, si può godere dell'apprezzamento di questa valuta. Per cui noi stimiamo rendimenti dell'ordine del 3-4% lordo su rendimento obbligazionario di liquidità, più la rivalutazione della valuta, che anche quella può essere un 3-4% lordo annuo. Quindi non sarei sorpreso se clienti che investono in questo fondo con una logica di qualche anno avessero rendimenti netti dell'ordine del 6-7% l'anno. Avete già cominciato a collocarlo, a distribuirlo, Giuliani? No, perché siamo sotto autorizzazione per l'Europa, il Lussemburgo ce l'ha data, stiamo aspettando quella italiana. Avete già comunque delle manifestazioni di interesse? Da quale tipologia di imprenditore italiano secondo lei potrebbe essere più facilmente collocabile? Ma sicuramente chi ha anche delle industrie in Cina, perché può avere degli altri vantaggi di gestione della liquidità nella Cina, che fino ad oggi era praticamente impossibile per chi aveva l'azienda proprio nella Cina. Per tutti quelli che hanno rapporti commerciali, ripeto, invece di pagare solo la copertura da rischio cambio, in questo caso si può anche guadagnare, quindi diventa una buona occasione. Dopodiché è chiaro che qualunque istituzione finanziaria o industriale o semplicemente un'istituzione ha voglia di investire sull'apprezzamento della valuta, con una soglia minima di 250.000 euro può entrare ed è conveniente. Ripeto, il fatto che siamo i primi in Europa ci mette nella condizione anche di lavorare sui mercati fuori dall'Italia in modo più efficace. Avete sbaragliato tutti, ci tenga al corrente di come andrà naturalmente il collocamento di questo fondo. Ritorniamo invece al mercato, alle preoccupazioni per i piccoli risparmiatori. Io tra l'altro vi segnalo, a chi ci ascolta, pagina 5 del Sole 24 Ore questa mattina, le strategie contro la crisi, il vademecum per risparmiatori e piccoli imprenditori, quindi tutte le conseguenze, come dire, delle tensioni di questi giorni sui bot, sulla borsa e anche sul mutuo, tante domande e risposte nella pagina curata da Vittorio Carlini e Maximilian Cellino. Patrizia da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, io volevo porre la seguente domanda. Il mio portafoglio titoli è composto prevalentemente, quasi esclusivamente, da titoli di Stato. Quindi io mi pongo la seguente domanda. Allora, adesso siamo sotto osservazione, già questo mette un po' di allarme, poi bisogna vedere questa osservazione con quale pronunciamento finisce. E quindi è possibile che ci sia un minor acquisto magari di titoli di Stato dei risparmiatori durante le prossime aste, e quindi praticamente lo Stato, perché quando finanzia i rimborsi con le nuove emissioni, questo mi preoccupa un attimo. Quindi io volevo sapere, io ho titoli che come scadenze sono abbastanza scaglionati, quanto si sta rischiando, cioè sia sul pagamento degli interessi che proprio sul rimborso vero e proprio. Patrizia, la ringrazio per l'articolata ottima domanda, che giriamo subito a Pietro Giuliani. Peraltro, tornando ai, come dire, alle indicazioni fornite dal Sole 24 Ore questa mattina, come dire, viene spiegato al cassettista che teoricamente non dovrebbe curarsi delle oscillazioni di breve periodo che sono dettate dalle tensioni sui debiti o dalle minacce di declassamento. Tra l'altro, oltre a quella di Moody's degli ultimi giorni, in maggio abbiamo avuto anche quella di Standard & Poor's, perché comunque i cassettisti possono sempre contare sulla restituzione dell'intero capitale a scadenza e devono sopportare solo le oscillazioni di questi giorni. Giuliani, è così? Sono fondati i timori di Patrizia? Allora, i timori di Patrizia sono fondati, però non mi sentirei di allarmarla troppo, nel senso che, corretto quanto scritto sul Sole 24 Ore di oggi e quanto appena detto, diciamo che un default dello Stato italiano è un qualche cosa di veramente improbabile, perché se questo accadesse ci sarebbero problemi molto più grossi. Detto ciò, però, siccome ho detto che sono fondati i dubbi di Patrizia, credo che magari una diversificazione anche su una parte obbligazionaria correttamente diversificata tra più scadenze, tra non solo titoli di Stato ma anche obbligazioni corporate, magari aiutata da un esperto, potrebbe far stare un po' più tranquilli, perché il vero problema è che gli esperti magari sulle informazioni, non necessariamente delle agenzie di rating, ma in generale sulle informazioni che hanno, possono reagire molto più velocemente di quanto poi non può farlo un privato tramite magari la sua banca, e quindi per stare un pochettino più tranquilli si potrebbe diversificare un po' di più e magari farsi aiutare in questo piuttosto che far semplicemente da sé. Detto ciò, io mi sento che comunque con un portafoglio di titoli di Stato italiano si può stare abbastanza tranquilli, non totalmente ma abbastanza. Senta, la preoccupa o comunque come lo giudica questo massiccio interventismo delle agenzie di rating degli ultimi periodi? Sono, come dire, preoccupate anche di ricostituire, di ripristinare la loro reputazione dopo che tutto questo interventismo non lo avevano avuto nella fase precedente all'esplosione della crisi dei mutui subprime nell'estate del 2007? Quindi mettono un po' le mani avanti? Allora, sinteticamente io lo definisco anacronistico l'interventismo delle agenzie di rating, che addirittura vanno a specializzarsi sulle singole città o province o regioni italiane. Ripeto, il titolo del tema è "Viviamo in Occidente, dove si consuma più di quello che si produce". Questa cosa va rimessa a posto, non si rimette a posto settimana dopo settimana, mese dopo mese. Quindi far uscire notizie settimana dopo settimana, mese dopo mese, serve solo ad alimentare la speculazione, che quando ha voglia di fare un po' di soldi se ne avvantaggia e le utilizza. Tutte le persone che hanno il ben dell'intelletto, o sicuramente quelli che operano sul mercato seriamente, operano conoscendo bene quelle che sono le situazioni macroeconomiche e, se vogliamo, anche tatticamente economiche, a prescindere da questi giudizi, ripeto, che come specializzazione e come tempistica sono sicuramente sovrabbondanti e a volte anche un po' mi lasciano perplesso. Allora, abbiamo un minuto di tempo, anzi forse 30 secondi prima di salutarci, le faccio una domanda perché ci sono alcuni ascoltatori che così chiedono un suo giudizio sulle prospettive dell'oro, quindi delle materie prime. Certo che chiederlo ad una società che gestisce, confeziona, distribuisce fondi di investimento forse non è corretto, ma insomma la materia prima e soprattutto la spinta sull'inflazione, come la dobbiamo vedere? Allora, noi abbiamo un fondo che si chiama Commodity Trading, che investe in materie prime, quindi a riprova che purtroppo per diversificate fortuna, pure voi, siamo diversifichiamo anche noi. Io credo che le materie prime, con il mondo che crescerà in termini di consumi e quindi di benessere, non potranno che continuare a crescere nel lungo periodo. È chiaro che anche lì la speculazione, alcuni eccessi e bolle che ci sono stati negi ultimi tempi le porteranno a crescite differenziati nel, a differenziare nel tempo. Esattamente, nel tempo e nell'entità di queste oscillazioni, per cui anche lì, piuttosto che comprare semplicemente oro o mettersi a far da soli, magari se si fa con degli esperti si è un po' più tranquilli. Devo salutarla, come sente abbiamo la sigla in sottofondo. Giuliani, grazie per essere stato con noi, buon lavoro soprattutto per la vostra avventura cinese, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie a Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato di Azimut. Noi torniamo domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.